sembra una domanda stupida, insomma, come dire, l'umore dopo questo sgombero. Ah, l'umore è di grandissima rabbia, ma allo stesso tempo grandissima determinazione, perché è vero, l'ABA non è solo un posto, è tanti posti, è tante persone. L'ABA non è stato sgomberato, è stato sgomberato l'ex caserma Masini, ma ciò non fermerà assolutamente l'evolversi, l'ampliarsi, il crearsi di l'ABA. Ecco, abbiamo visto già alcune reazioni, insomma, cittadine, abbiamo già raccontato anche alcuni dei progetti che si svolgevano alla Bada, accoglienza degna, al mercatino di Campi Aperti, alla Bimbi. Una cosa che non abbiamo detto è che, come dire, l'esperienza di l'ABA era ritenuta sufficientemente interessante, diciamo così, anche da alcuni registi che ne hanno fatto un set cinematografico. Sì, più volte ci siamo ritrovati a avere a che fare con registi di fama internazionale che hanno scelto l'ABA o alcune parti di l'ABA per girare delle scene o addirittura interi film all'interno dello spazio, a volte concordando con il tutto, altre volte arrivando quasi di sorpresa all'interno del posto e prendendoci un po' di sprovvista. Però sì, è una cosa che è avvenuta molto spesso. Ecco, alle 12 giusto ci sarà la conferenza stampa? Alle 12.30. 12.30, e quindi noi cercheremo di mandarla ovviamente in diretta. Però appunto, quali sono i progetti che vengono meno quindi con la chiusura di l'ABA? Immagino accoglienza degna, ma a proposito del mercatino del mercoledì? Ma questo in realtà è tutto da vedersi, poi in conferenza stampa ne parleremo sicuramente molto meglio, però accoglienza degna, lo dice il termine stesso, non è esclusivamente quattro mura all'interno della caserma Masini. Accoglienza degna è anche un modo di accogliere, un modo di rapportarsi appunto a chi cerca ospitalità, chi deve essere accolto e all'interno delle nostre città. Quindi per esempio con gli ospiti del dormitorio proveremo a fare una campagna che chieda a tutta la cittadinanza di eventualmente ospitare una delle persone che hanno vissuto in questi anni all'interno di l'ABA. Accoglienza vuol dire anche creare reti tra tutte quelle persone che ci frequentano da tempo, che ogni giorno o costantemente hanno alimentato e hanno creato tasselli di quel progetto, e questo non è morto, cioè l'ABA è stato solo il suo inizio. Per quanto riguarda il mercato di Campi Aperti, invece, sì, sicuramente la magia. Sì, noi ti sentiamo. Sicuramente la magia della caserma Masini verrà meno, perlomeno per questo periodo, dopodiché valuteremo se non riproporlo sempre in quartiere, essendo un mercato non di l'ABA ma un mercato di quartiere. Ecco, una cosa interessante di l'ABA è che da 5 anni trovava casa in uno dei quartieri, diciamo così, sulla carta più ostili di Bologna, l'unico quartiere smaccatamente di destra, poi sono cambiate anche un po' le geografie in questi anni. Com'è stato, qual è stata la chiave per riuscire a come dire, entrare in questo quartiere e restarci a lungo? Questa è una domanda sicuramente impegnativa e alla quale ci sono mille risposte differenti. Sicuramente il dare la possibilità alle persone, abitanti del quartiere o meno, di fare, di poter pensare, creare e fare un qualcosa che effettivamente rispecchi dei valori e vada verso quel tipo di società che ogni giorno l'ABA ha fatto nascere, ha fatto crescere e continuerà a fare, è stato un elemento aggregativo, è un elemento che ha reso effettivamente la caserma Masini un polmone sociale, e davanti a un polmone sociale che il quartiere ha risposto chiaramente in maniera positiva e si è fatto proprio coinvolgere e ha coinvolto di conseguenza. E questo penso che sia anomalo magari rispetto a quello che abbiamo al quartiere Santo Stefano, come dici tu appunto, storicamente di destra, ma nel momento in cui tu apri una parte di città che tra l'altro era chiusa, era sporca, era appunto imprigionata in se stessa, allora le persone magari riassaporano anche un po' il sapore di quella libertà, di quel fare, di quello stare insieme che poi ha creato l'ABA e è l'ABA. Ecco, questa mattina su alcune testate locali vediamo anche ospitate le parole di alcuni residenti della zona, come dire, non di certo antagonisti, ma anche vecchiette coi capelli bianchi, eccetera, basite da questo sgombero, che diceva: beh, ma che male facevano? Certo, questo è sempre stato evidente agli occhi di tutti. Una delle sue particolarità è sempre stato quello di riuscire ad accogliere in sé e a far sentire a casa loro un'eterogeneità di persone incredibili, dai bambino all'anziano, dallo studente al migrante, e anche le persone del quartiere, soprattutto quelle più anziane, là hanno sempre trovato comunque un modo di rispondere alla solitudine o di rimettersi in gioco, per esempio, e questo lo si vede dai progetti che sono stati svolti all'interno, dal mercato, ma non solo. E sicuramente la chiusura di Labà toglierà un'enorme ricchezza da questo punto di vista ai loro abitanti. Con i residenti sì, sicuramente ci sono stati dei momenti nei quali abbiamo avuto bisogno di confrontarci nel capire anche quali devono essere gli equilibri tra lo spazio e il quartiere, perché c'è sempre stata la volontà appunto di vedere la BA come parte del quartiere. Dopodiché sicuramente lo stesso quartiere si è reso per primo protagonista di la BA. Comunque, in ogni caso, mi sembra di capire che non si tratta di un addio, ma di un arrivederci. Assolutamente sì, ma neanche di un arrivederci, in realtà non mi piace. È un qui e ora, allora, ancora. Esattamente, è un qui e ora. Va bene, io intanto ti ringrazio, Francesca, e poi ovviamente sentiremo quello che ci direte anche nella conferenza stampa. Grazie mille. Ricorderà tutti quanti appunto alle 12:30 la conferenza stampa di fronte al Comune. Grazie a tutti.